gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Bentrovati e bentrovate, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Miami International Double RMI. Questa è la redazione italiana direttamente dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Mentre vi sto parlando, sto sorseggiando un buon caffè, eccolo qua. Un buon caffè rigorosamente made in Italy, fatto alla napoletana con la cara vecchia mochina, la moca, insomma, di questa grande azienda italiana, la Bialetti, che fa caffettiere eccezionali. Anche questo è un po' il sapore d'Italia, il sapore di I Love Italy. Cari amici e cari amiche, come state? Mi auguro tutto bene, io non mi lamento, tutto ok qua dallo studio dall'Oltrepò Pavese, dalle verdi colline dell'Oltrepò Pavese, direttamente a Okeechobee in Florida, dove il segnale arriva direttamente proprio alla nostra sede centrale di WRMI Radio Miami International. I Love Italy, vi dicevo, è in onda su kilohertz 7780 pari a metri 41 per vaste zone degli Stati Uniti, dell'Europa nord, centrale e sud Europa. Al microfono, come di consueto, qua dalla redazione italiana, Andy Mangiarotti. In apertura ovviamente vanno i miei saluti a tutti voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici che ci seguite oramai da circa 3 anni, siamo sempre qua fedelmente in onda sulle antenne di Radio Miami. In apertura volevo salutare James C. Reed, un ascoltatore degli Stati Uniti, che mi richiedeva una cartolina QSL. Il suo ascolto è avvenuto un po' di mesi fa, poi purtroppo non gli è stata recapitata la cartolina QSL. Comunque noi abbiamo deciso di fare questa cosa, visto che purtroppo, essendo ancora in clima di pandemia, quindi vi invieremo sicuramente le cartoline QSL per i vostri rapporti di ricezione, però vi mandiamo in precedenza un file PDF tramite mail, quindi ci potete scrivere all'indirizzo andrea@mangiarotti.org se magari volete farci dei rapporti di ricezione. Quindi vi manderemo in anteprima la cartolina scannerizzata, così almeno siete sicuri che con questo mezzo la ricevete, perché purtroppo le poste italiane hanno molte molte lacune. E poi vi invieremo proprio la cartolina, sentite, proprio il formato cartaceo che ho qua, cartolina personalizzata di I Love Italy con un bellissimo mare e con la scritta "Oggi ci siamo tuffati in questo mare". È una riproduzione di una vecchia cartolina degli anni 60 che ho trovato e ho riprodotto, e poi ovviamente c'è il logo I Love Italy. Benissimo. Premesso questo, i contatti per scriverci, ci potete scrivere in vari formati, come volete voi. Partiamo dalla classica mail, andrea@mangiarotti.org. Vi invito anche a visitare il sito andreamangiarotti.com, che sentite in apertura nominato, oppure anche voiceofitaly.it. nonché il sito di Radio Miami International, l'emittente che ci ospita, che la trovate all'indirizzo wrmi.net, wrmi.net, quindi .net. Lì potete anche farci un rapporto di ricezione telematico. Voi praticamente tramite computer potete inviare il rapporto e riceverete in automatico la cartolina QSL di Radio Miami International nel vostro indirizzo postale. Se preferite il cartaceo potete scrivere sia a loro che a noi, potete scrivere ad Andrea tramite email e io vi mando il cartaceo. Se invece proprio volete scrivere in formato cartaceo, WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Ecco, questi sono tutti i dettagli per entrare in connessione con I Love Italy, questa trasmissione in lingua italiana condotta da Andy Mangiarotti, che vi ricordo dura 15 minuti nell'etere e nelle magiche onde corte di Double RMI. Ora però cambiamo completamente argomento. In questa nuova puntata di I Love Italy parliamo di cinema rigorosamente italiano, perché solitamente in questo rotocalco si parla di Italia, parliamo di società, costume, cinema, teatro, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo italiano. Quest'oggi parliamo di un capolavoro del 1973 diretto dal il maestro Federico Fellini. Tra i tanti suoi capolavori, quest'oggi qua a I Love Italy vi vogliamo raccontare Amarcord, un film bellissimo, veramente dei più noti sicuramente del regista Emiliano Romagnolo. E praticamente Amarcord praticamente sarebbe Io mi ricordo, è entrato nell'immaginario collettivo proprio questo termine Amarcord, proprio per far tornare in mente, è un neologismo della lingua italiana, il significato è una rievocazione in chiave nostalgica del passato. Si dice che Amarcord fu un sogno del maestro Fellini, che poi lui diresse in modo eccezionale, sceneggiò anche e ci regalò questo capolavoro veramente veramente immenso. Quindi quest'oggi I Love Italy, speciale Federico Fellini, Amarcord, che tutti voi conoscete, è un film del genere comico, ma potremmo definirlo anche drammatico per certi versi, e grottesco, soggetto e sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, regia Federico Fellini. Vediamo i principali attori che vanno ovviamente citati: Armando Brancia, Aurelio Biondi. Poi abbiamo Ciccio Ingrassia, il grande Ciccio Ingrassia del duo comico Ciccio Franco, che è lo zio Teo, Magalli Noel, Ninola detta Gradisca. Poi abbiamo Puppella Maggio, Marianda Biondi, poi ancora Nando Orfei, Lello, Luigi Rossi, l'avvocato, Bruno Zanin, Titta Biondi, il ragazzo appunto che si vede nel film, questo bel ragazzo. Poi c'è anche un grande attore, Alvaro Vitali, proprio scoperto dal dottor Fellini. Fu proprio lui nel 73 a scoprire Alvaro Vitali, lo scritturò perché sapeva fare benissimo il fischio del merlo. Poi è diventato il grande attore che tutti voi conoscete, poi ha cambiato genere, va bene, va bene. Questi sono alcuni degli attori protagonisti di Amarcord. Vediamo la vicenda. La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini. Inizia con la primavera inoltrata, siamo negli anni 30. E praticamente in questa Rimini interagiscono con folklore paesano moltissimi personaggi che prendono vita probabilmente dai sogni di Federico Fellini. C'è per esempio l'adolescente Titta, che cresce subendo i condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche, la sua vita, poi c'è la sua famiglia di questo giovane adolescente Titta, il papà è anarchico, quindi potete immaginare, siamo negli anni 30, quindi contro il regime fascista, la mamma, addirittura c'è anche la cameriera, perché negli anni 30 c'erano queste famiglie allungate con tanti figli, e la cameriera e il nonno, che sì, il nonno saggio, no, che vive in questa famiglia. Questi sono i ricordi della famiglia italiana degli anni 30, che poi purtroppo con gli anni 70 si è completamente sgretolata. Infatti oggi sono veramente pochi purtroppo in Italia sia i matrimoni che anche la nascita di figli. Tutta questa vicenda ruota attorno a questo ragazzo, a questa sua famiglia, ma non solo, anche a tutti gli abitanti un po' particolari di questa città, di questa Rimini, che noi immaginiamo che sia proprio Rimini, la città di nascita di Fellini. Poi c'è anche la bellissima Gradisca, dove tutti i compaesani sono innamorati. Ci sono i ragazzi, gli amici di questo Titta, improbabili, un Alvaro Vitali veramente burlone e anche direi molto molto discolo. E poi c'è anche il parroco, che solitamente indaga un po' troppo nella vita personale dei ragazzi. Poi ci sono degli attimi, dei momenti, dei fotogrammi di questo capolavoro che Fellini ci ha regalato. Per esempio il divertentissimo pranzo a casa, per l'appunto, di questo ragazzo, come vi ho detto in precedenza, questo Titta, dove il padre gli corre dietro per il giardino perché lui ha fatto una marachella, e la famiglia un po' italiana di una volta, che anch'io, devo essere sincero, ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, poi negli anni 90 tutto questo si è un po' sgretolato. E poi c'è l'episodio, ci sono alcuni episodi particolari, per esempio molto grotteschi e divertenti, ma non solo, anche episodi molto, io li definisco poesia pura. Per esempio quando il nonno si sveglia un attimo e si perde in questa nebbia, che è praticamente un muro, lui esce in casa e trova questa nebbia e dice: dove sono, dove sono, non sarò mica morto, no? E questo è un passaggio molto molto delizioso, molto romantico, e che ci piace. Nonché anche il passaggio del Transatlantico Rex, no? Che tutto il paese, tutta la città era in fermento perché doveva passare questa grandissima nave, voi immaginate il Titanic, e allora tutti i cittadini si radunano proprio lungo il mare per vedere il passaggio di questo Transatlantico Rex. E anche qua c'è molta poesia, no? Perché ci sono queste luci del Transatlantico che arriva dalla distanza in una notte d'estate, e tutti i cittadini guardano l'arrivo di questa bellissima nave. E questo è Amarcord, appunto, di Federico Fellini. Riconoscimenti: premio Oscar miglior film straniero per l'Italia, nomination miglior regista Federico Fellini, siamo nel 75, nomination miglior sceneggiatura originale di Federico Fellini e Tonino Guerra. Tonino Guerra è un altro grande personaggio, appunto, perché che appunto ha sceneggiato moltissimi bellissimi film italiani. 1975 Golden Globe, 74 David di Donatello miglior film a Federico Fellini, 1974 Nastro d'Argento, nomination immense, 75 Globo d'Oro, 74 National Board of Review Awards, miglior film straniero, poi ancora riconoscimenti: Kansas City Film, premio Bodil, New York Film Critic Circus Awards, Syndication Français de la Critique du Cinéma, premio Jumbo Circuito e Scrittores Cinematográficos, miglior film straniero, e così via, e così via, e così via. Quindi un capolavoro immenso. Noi abbiamo finito, cari amici delle onde corte, quest'oggi abbiamo nominato Amarcord di Federico Fellini, questo capolavoro immenso. Io vi invito soprattutto alla visione di questo film, se non l'avete mai visto, sia in lingua italiana o anche in lingua inglese, comunque, o con i sottotitoli in inglese. capolavoro assoluto, se siete giovani, Amar Chord di Federico Fellini. Non sbagliate. I Love Italy termina qua anche per questa nuova puntata. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per la possibilità di far veicolare la mia voce, le mie emozioni nelle onde corte. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Un saluto dalla redazione italiana di Double RMI. Ora i programmi continuano con ancora altri bei programmi in varie lingue internazionali. Da Andy Mangiarotti è tutto. Buona giornata. Ciao, ciao da Andy. Ciao.